Intesa San Paolo, Official Global Banking Partner di Expo Milano 2015. Vi presenta. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. In the heart of Las Vegas right now, a marquee event, a high-stakes clash of campaign rivals who have never gone head-to-head before. It's the Democrats' turn in the spotlight with the White House on the line. Il dibattito democratico, ieri sulla CNN, moderatore Anderson Cooper, è partita la corsa vera, quella che vede i due partiti contrapposti. Il primo dibattito, devo dire, è stato molto importante perché ha consacrato Hillary Clinton come la front runner. Devo dire, Hillary è emersa con forza, con chiarezza, come il candidato non soltanto da battere in campo democratico, ma il candidato da battere su base nazionale, perché ha dimostrato padronanza delle tematiche, ha dimostrato aggressività, ha dimostrato lucidità, insomma tutte le critiche che Hillary aveva subito negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, in qualche modo sono state spazzate via da una performance, devo dire, che è stata davvero molto molto buona. Il New York Times questa mattina, devo dire, condivide questa mia opinione. Frank Bruni dà pieni voti a Hillary Clinton. È stato un dibattito nell'insieme non particolarmente brillante o denso di sorprese come abbiamo avuto nei dibattiti repubblicani. Manca il personaggio Trump, manca quell'elemento di disturbo della normalità che invece abbiamo visto nel campo repubblicano. Ma ci sono stati dei momenti davvero molto interessanti in questo dibattito. Cominciamo da quello che è stato il momento forse migliore sul piano politico, più maturo, quando a un certo punto c'è una domanda a Hillary Clinton sullo scandalo Emailgate e sentiamo come risponde Bernie Sanders su Emailgate. Interviene e che cosa ha da dire? Sentiamo. Let me say something that may not be great politics, but I think the secretary is right. And that is that the American people are sick and tired of hearing about your damn emails. Thank you. Me too. Me too. You know? Ecco, Sanders a sorpresa dice: sono stufo di questa situazione, sono stanco, ci sono milioni di americani che vivono in povertà e non abbiamo tempo da perdere per occuparci delle email della Clinton. Gli americani sono stufi di sentir parlare delle tue dannate email. A quel punto c'è stata un'ovazione, applausi, Hillary Clinton ha stretto la mano di Sanders ed è stato un momento così, come dire, di grande maturità politica, perché secondo la tradizione, insomma, Bernie Sanders avrebbe dovuto attaccare il fianco debole di Hillary, quello su cui si stanno accanendo i repubblicani, ma in questo caso ha dimostrato maturità politica perché ha fatto prevalere l'unità democratica contro quella che è una chiara strumentalizzazione da parte dei repubblicani. Stretta di mano fra i due, vi dicevo, era stato questo l'unico momento in cui i due non si sono scontrati. Questo dibattito si è tenuto all'Hotel Wynn di Las Vegas, è andato in onda sulla CNN, come vi ho detto, moderato da Anderson Cooper. I candidati sono cinque: Hillary Clinton e Bernie Sanders, come vi ho detto, sono sicuramente i due più importanti. Bernie Sanders è senatore liberal del Vermont, parte attaccando da sinistra Hillary Clinton. Martin O'Malley, ex governatore del Maryland, ex sindaco di Baltimora. Jim Webb, che è stato l'ex senatore della Virginia. Devo dire, ho incontrato Webb una volta, ho partecipato a una cena alcuni mesi fa, non è che mi abbia fatto una grandissima impressione ed infatti ieri non è emerso come un possibile contendente serio. Lincoln Chafee, ex senatore indipendente, governatore del Rhode Island. Ecco, i due che restano sono Hillary Clinton e Bernie Sanders, ma soprattutto Hillary Clinton. A questo punto si pone un interrogativo interessante: che cosa succederà con Joe Biden, il vicepresidente? Era lì che guardava, voleva aspettare, voleva vedere come sarebbe andato questo dibattito. Direi che a questo punto non sarebbe una buona idea se decidesse di intervenire, perché come vi ho detto Hillary si è confermata un candidato solido e forte e deve prevalere l'unità del partito. Partiamo con alcune delle tematiche affrontate dai candidati. Sentiamo la Clinton. I believe in equal pay for equal work for women. But I also believe it's about time we had paid family leave for American families and join the rest of the world. I ricchi devono pagare la loro giusta parte, le aziende devono condividere i loro profitti con i lavoratori, ha detto Hillary e poi ha aggiunto sono una progressista, ma sono una progressista che vuole ottenere dei risultati, sono rimasta fedele ai miei principi. Ecco, questa è la risposta quando Anderson Cooper l'ha provocata chiedendogli, ma insomma, dice, ma lei sta cambiando posizione su tutto, per esempio sull'accordo per il libero scambio con i paesi del Pacifico, per esempio sulla costruzione dell'oleodotto di Keystone, che ora la vede contraria. Sentiamo una battuta di Sanders. Well, we're gonna win because first we're gonna explain what democratic socialism is. Gli chiede Anderson Cooper, ma come può un socialista vincere negli Stati Uniti? Perché Sanders è davvero a sinistra. E lui risponde, ma si vince spiegando cos'è la socialdemocrazia e credo che bisogna guardare a paesi come la Danimarca o come la Norvegia per poter avere dei punti di riferimento e capire che la socialdemocrazia può dare dei risultati molto importanti. Difficoltà però per Sanders, intanto perché la Clinton l'ha attaccato subito. L'ha attaccato violentemente, gli ha detto ma come la Danimarca, ma come la Norvegia, noi siamo Stati Uniti d'America, noi possiamo fare delle cose straordinarie senza guardare a quello che ha fatto un paese, adoro, dice la Danimarca, ma non è che deve diventare il nostro punto di riferimento. Questo naturalmente ha messo in difficoltà Sanders, il quale si è trovato, lui, progressista, liberal, di sinistra, in difficoltà sulle questioni delle armi, del porto d'armi. Perché? Perché ha votato contro una proposta di legge che proponeva di limitare la libera circolazione delle armi. E nel dibattito si è difeso dicendo che lui proviene da uno stato rurale, che in uno stato rurale ci vogliono le armi e che dunque il suo voto andava interpretato e letto in quel modo. In realtà è una contraddizione mica da poco per un progressista appoggiare la diffusione di armi in un momento in cui, tra l'altro, come abbiamo visto negli ultimi incidenti all'università, ci sono dei pazzi che prendono pistole liberamente e uccidono giovani innocenti. Insomma, un dibattito, quello di ieri, molto interessante, meno animato forse di quello che abbiamo visto fra i repubblicani, un dibattito sicuramente intelligente in molte sue posizioni, ma un dibattito che ha consacrato Hillary Clinton come il front runner da battere, l'abbiamo vista in ottima forma, che ha detto che sta facendo dei passi indietro. Direi che dovrà rivedere le sue analisi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Direi che ci stiamo muovendo in avanti nel Partito Democratico. Non so se la rivoluzione che vuole portare Bernie Sanders con la socialdemocrazia in America possa funzionare. Comunque qualcosa ha ottenuto, perché Hillary Clinton, come abbiamo visto, si è spostata anche lei un po' a sinistra su alcune tematiche. Dunque, dei Beatles, Revolution. You say you want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi ha presentato America 24.